It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non più. La fabbrica di polli produce, non cuoce quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli le norme igieniche vengono sistematicamente violate, K, Drago e il pollo in sbattimento incontrano una gallina episcopale. Forse. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Ma dopo fisso, quali sono? Sono quelli prima. Sono poi arrivano zitti, io. Zitti, pollastri. Cos'è che ha detto, bella gallina? Ho detto che se vi serve una gallina episcopale, io posso procurarvene una. Se ve ne servono tre, io ve ne procuro tre. Ah, procuri, quindi tu non sei una di quelle. Certo che no. Vi sembra una di quelle? Beh, insomma. Kappa, insomma, è chiaro che lei non è una di quelle, signorina, deve scusare il mio amico. Non è scusabile. Ma come? Come non è scusabile? No, non sei scusabile, Kappa, adesso va. Sì, vabbè, allora sai cosa ti dico? Allora chi se ne frega? No, ma Kappa, aspetta. No, chi se ne frega? Va bene, devo intendere che qui non vi serve una gallina episcopale. Ma certo che mi serve. Anche a me. Anche a me. A te no. Così impari a trattarmi male. Ma dai, ma stavo scherzando. Con Dixie non si scherza. Ah, Dixie. Mi sembrava di averti riconosciuta. Ma tu sei Dixie, la pollivendola episcopale. In piume e cresta. Ecco, Kappa, hai maltrattato la pollivendola episcopale. E questo ti costerà caro. Ma dai, Dixie, se è solo per i soldi non ci sono problemi. Io ho il controllo di tutte le galline episcopali della fabbrica di polli. Ve ne serve una bianca? Babes. Una nera? Glory Hole. Una con gli occhi blu? Double Fisted. Una grassa? Big Beautiful Chicken. Una vecchia? Machines. Una minorenne? Mature. Una senza zampe? Heavily Injured. Come vi piace di più? Beh, un amateur ce l'hai? Certo. Hai capito, l'amateur. Maria l'amateur, no? Il finto amateur. No, no, amateur no, no. Meglio una gallina standard. Ah, si può, normale, senza becco. E senza zampe? Come no? Le zampe mi piacciono. Sì, le zampe tutte belle unghiute. Sentito? Dice sicuramente di lineare Verstärkung colonnello unghiute. Ma Kappa, una volta eri sicuro che dicesse di lineare Verstärkung Thelma Louise? No, eri tu che lo dicevi. No, veramente anche tu lo dicevi. E invece adesso cambiato idea, Louise, Drago. Adesso penso che questi siano messaggi che aggiornano i polli in tempo reale sulla situazione del golpe del colonnello unghiute. Vedi puntata numero 28. E allora chi vuole le galline episcopali? Io. Io. Ottimo, seguitemi, prego. Dai, andiamo, Drago. Ecco, sì, di qui. Sì, no, ma è buio, attenzione. Oh, prego. Sì, scusa, pollo in sbattimento, se non ci stai davanti ai piedi. Ma che tipo di galline hai? Giovani, belle, di tutti i tipi comunque. Ma sono pulite, sì. Naturalmente. Drago. No, ma sai, è sempre importante. Che domande. Che siano pulite però, Non si preoccupi, veloci su. Sì, non vedo niente. Dai, pollo in sbattimento, su. Spostati le gambe. Sì, ti infili sempre in mezzo. Ecco, no. Maria l'amateur, no? Il finto amateur. È tutta una finta, no, amateur. Sono una gallina. Faccio un uovo e son da te. Mio bel gallo impaziente e selvaggio, mi fai fare cocodè. Mi fai fare cocodè. middle of nowhere. La fabbrica di polli. Signorina Dixie, perché ci ha portato in quest'angolo buio? Qui è tutto buio. Appunto, Drago, dai, su, non fare domande stupide e non importunare la signorina Dixie. Sì, parli tu che prima l'hai chiamata in un certo modo, non voglio nemmeno pensare. In un certo modo, sì, sì, capo, ho solo chiesto. Figuraccia. Quest'angolo buio è il mio ambientino. Eh? Fa un po' schifo, ma è il mio ambientino. Ah, no, ma carino. Ecco, qui ho il catalogo. Fate la vostra scelta. Per il compenso ne parliamo dopo. Sì, parliamo dopo. Fai vedere. No, no, fai vedere a me. Dai a me. Ehi. Voi due. Cosa c'è? Io non vedo niente. Ma dai, polli il sbattimento, tu. Vabbè, dai. Cosa c'entra lui? Zitto, cosa c'entra lui? Come cosa c'entra lui? C'entra. Ma dai, allora svolazza sulle spalle di Drago. No, di K, perché poi. Ma no, che svolazzare? Come? Abbassatevi voi, no? Vabbè, dai, eccomi. No, senso, un po'. Allora. Allora. Leggi un po'. Amateurs. Amateur. Teens. Big teens. Vabbè. Pollo. Mature. Ma che, dai, pollo sbattimento. Tutte. Injured. Vabbè. Lasciamo perdere. Decapitated. Decapitated. Ma no, ma cosa pollo? Decapitated. Black. No, black no. Come Big black beautiful no, chicken. She-mail. No, she-mail. Come she-mail? Cosa vuol dire, scusa? Eh sì, eh no, ascolta. No, she-mail sono delle porcherie brasiliane. Sono delle galline che sembrano galline. Sì. Ma poi sotto il trucco sono dei galli, è una fregatura. Vabbè, dai. Tu le vedi che sembrano galline. Sì. Le vedi lì e dici, beh, la gallina. Poi già le vedi... sono galli poi, no? Ma allora, cos'è? Dai, ho capito anch'io, sono travestiti, dai, che male c'è? Esistevano già nell'antichità normalissimi travestiti. Allora, pollastri, se guardiamo tutti insieme non combiniamo niente. Chi sceglie per primo? Vabbè, ma se tu ti sposti io, dai, scelgo io. No. Io sono il più alto, scelgo io. No, scusa, io sono il più vecchio, Vabbè, allora facciamo così, scelgo io per primo perché sono a metà di tutto. Ah, però adesso di matematica capisci. Quando serve capisco, esatto. Allora, io, cara signorina Dixie, vorrei una Oriental Teen tipo questa qui. Da dove viene? Questa viene dalla Thailandia. Non è cinese, vero? Perché sa, con l'aviaria... No, è coreana. Ma aveva detto thailandese un attimo fa. E pakistana? Ma no, scusa, ragazzi. Vietnamita? Ragazzi, anzi, pollastri, questa gallina è una truffatrice. Anzi, un'untrice, perché vuole darmi una gallina episcopale cinese. Ma anche tu, Drago, scusa, scegliene una non a rischio. Che ne so, scegli una californiana. No, una magrebina. Le magrebine sotto i veli sono speciali, vero? Come no? Io me ne vado, voi fate quello che volete, io me ne vado. No, io resto. No, anch'io, Bene, allora abbiamo anche le Big Naturals, le Double Fisted, le Red Ma Double Fisted, quali sono? Se no poi arrivano e io non so come comportarmi. Ah, loro restano, è certo. La lotta episcopale è durissima, ma io non mi piegherò al mercimonio di galline malate. Rimpiango la vita episcopale di quando ero ancora un uomo al 100%. Ora che mi sto pollizzando, sento crescere in me il sentimento dolce e amaro del gatto castrato. Che ne sarà di me? Anzi, che ne sarà di noi? Con questa domanda così carica di significati nascosti da apparire insulsa, ci congediamo per il fine settimana lasciando in sospeso il golpe del colonnello Unghiute e il traffico di galline episcopali allestito dalla bella Dixie. Con Dixie non si scherza. Torneremo puntuali lunedì a mezzanotte su Radio 3 per i prossimi deliranti allestimenti de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli, un programma di Kappa e Drago, con Roberto Accornero, Guido Bertolotti, Alberto Caserini, Paolo Corsi, Luca Gemma, Claudia Mangano, Luca Micheli, Luca Monarca, Alberto Onofrietti. La fabbrica di polli at rai.it, barlumen.com. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce, quasi mai. Good night, ladies and gentlemen. Good night. Bye.